È arrivato Milana Lino. Legge, commenta, spoglia, combattute piccanti. È arrivato Alino Milan, l'arrotino della comunicazione. 24 mattino. Ci siamo, signori, sono le 7:19 minuti, siamo qui quasi 7:20 minuti in questo venerdì. Sei contento? Vabbè, insomma, caro presidente De Luca, in questa conduzione 4.0 sono contento, perché dobbiamo fare. Intanto è la 199esima settimana decisiva per l'abolizione delle province che se ne va. E la... Ma che meraviglia! E anche la decima settimana decisiva per la riforma elettorale che se ne va. Che spettacolo, che spettacolo. È tutto così, senza qualcosa di concreto. Ma la 200esima settimana decisiva per l'abolizione delle province è alle porte. Come mi sono divertito. Vedremo, no, come ti divertirai. Ecco, dobbiamo mettere a punto un attimo, ancora perfezionare. E poi, mastro. Poi la conduzione è quasi pronta, caro presidente De Luca, quasi, quasi. Andiamo, la rassegna stampa. Sarebbe una goduria. Magari una goduria per tutti, anche per i nostri ascoltatori. Venerdì 24 febbraio, intanto qualche titolo, andiamo velocemente. L'apertura del Sole 24 Ore dedicata a Unicredit, centra l'aumento, il piano MPS invece stretto tra le richieste della vigilanza di BCE e i dubbi dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato. E Unicredit però con l'aumento di capitale che si è chiuso con adesioni pari al 99,8% dell'offerta, raccogliendo circa 12,97 miliardi di euro sui 13 offerti. L'apertura invece del Corriere della Sera è su Mediaset, indagato Bolloré, i PM di Milano ipotizzano per l'imprenditore francese il reato di aggiotaggio sull'operazione che ha portato Vivendi a quasi il 30% dell'acquisizione delle TV di Berlusconi. Per Repubblica invece, morta di fatica, 6 arresti, ecco il nuovo caporalato. Questa è anche l'apertura della Stampa, è morta di fatica, finiscono in manette per gli schiavi d'Italia. È un'apertura, una notizia di cronaca che vedremo. Il Fatto Quotidiano invece apre con una notizia esclusiva, lotta raccomandò a Emiliano l'amico d'affari di papà Renzi. Questo è il titolo di prima pagina. Per il Messaggero, PD, la scissione costa il 3%. La verità anche sulla vicenda del papà di Renzi, i favori di Babbo Boschi, anzi no, del papà della Boschi, i favori di Babbo Boschi al massone. Vorticosi giri di denaro sul conto corrente fatto aprire al faccendiere Mureddu dal vicepresidente di Banca Etruria in persona. Questo è il titolo di prima pagina. Vedremo altre aperture dei quotidiani. Voglio subito tuffarmi nella lettura e nell'approfondimento di alcune notizie, a cominciare da questa che riguarda la RAI. L'abbiamo sentita anche nel giornale radio. Allora, la RAI ha messo questa stretta sui costi, nella precisione il CDA, il Consiglio di Amministrazione della RAI, ha esteso il tetto dei compensi di 240.000 euro anche agli stipendi degli artisti. Secondo me una follia, lo dico, lo so che è impopolare, una follia. Cioè, secondo voi Fabio Fazio, con tutto quello che magari fa guadagnare con gli ascolti, deve guadagnare al massimo 240.000 euro l'anno per tetto? Non so, Carlo Conti, Sanremo, che ha portato il 50% di ascolti, di share ogni serata, 240.000 euro. Il risultato, chiaramente, come raccontano tutti i giornali, se così sarà, è che questi artisti andranno altrove, dove verranno più pagati. È il mercato, bellezza. Rai, tetto da 240.000 euro agli stipendi degli artisti. Il voto del CDA, l'ultima parola comunque spetta al Parlamento e al Tesoro. Ah, vabbè, ma allora è all'italiana. Sono quelle decisioni che poi non verranno mai applicate. Comunque, tutti i giornali dedicano una pagina a questo, la Stampa, il CDA Rai, tetto anche per gli artisti, compenso massimo da 240.000 euro. La Stampa, tra l'altro, ricordate, settimana scorsa, 10 giorni fa, a ridosso di Sanremo, era uscita proprio con i compensi delle star Rai, 3 milioni a Antonella Clerici, i 2 milioni e 7, ma non a lui, ma alla casa di produzione dei programmi di Michele Santoro, il 1.400.000 euro per Flavio Insinna, 1.800.000 per Piero Angela, non all'anno, si parla 3 anni, 4 anni. Carlo Conti, Fabio Fazio, 2 milioni di euro, dice oggi il Messaggero. Insomma, tutti questi compensi andrebbero calmirati a 240.000 euro. Ecco qui anche Libero in prima pagina: la RAI taglia lo stipendio a Fazio, Conti e Annunziata. Lucia Annunziata è l'unica che ha detto subito obbedisco, però vedremo, guardate che non succederà, secondo me, e peraltro secondo me è sbagliato. Comunque, soldi, soldi, soldi. A proposito di soldi, soldi, soldi che vi portano via con le multe, cari italiani. C'è un'indagine di Quattro Ruote rilanciata da Libero oggi. A Roma non c'è più nessuno che paga le multe. Questo è il titolo. Per i vigili è colpa dei ricorsi. Il dato di fatto è che l'introito delle multe a Roma sono crollate in un anno del 78%. Nel 2015 il Comune di Roma aveva incassato nei primi 6 mesi 66 milioni e 759 mila euro. Nello stesso semestre del 2016 30 milioni e 205 mila euro, meno della metà. Nel secondo semestre, pensate, 78 milioni nel 2015, nel 2016 un milione, un settantesimo. E poi vai a gestire le casse comunali con questa situazione. Motivo di questo anomalo dato, perché questo crollo verticale degli incassi, si chiede Libero. Possibile che a Roma si contestino le multe solo a Roma? In questo senso dal Comando Generale non sono stati in grado di fornire spiegazioni. Tornando ai numeri di Quattro Ruote, il confronto con le altre città, anche importanti come Milano per esempio, è impietoso. A Milano è la capitale italiana delle multe, 157 milioni di euro incassati, una media di 116,78 euro a contravvenzione. Ecco, io che abito a Milano dico, ma che sono proprio il più pirla? A Milano pirla è un tipico... Eh sì, evidentemente, caro Peter Bescapè, anche a te mi spiace accomunarmi in questa cosa, sei un pirla, te lo dico, Peter Bescapè, sei un pirla, te lo ripeto per la terza volta, pirla, perché vivi a Milano, se prendi una multa la paghi, invece se vivi a Roma, poi ci sono anche confronti con altre città, meno, comunque quanto paga ogni cittadino per i verbali? La top 10, Milano 116 euro di media, Padova 92,30, Parma 90,78, Firenze, Bologna, Lecce, Pisa, Treviso, Brindisi, Pistoia al decimo posto con 65,27 euro di media. Soldi, soldi, soldi, solo 12.000 euro in questo caso, anzi 10.000 di ammenda. È l'ammenda che un giudice ha detto che la Lega deve pagare, perché è una vicenda che affonda le radici in un collegamento televisivo di qualche tempo fa. Dovevano arrivare degli immigrati a Saronno, in provincia di Varese, e in una trasmissione televisiva furono esposti da alcuni esponenti della Lega: Saronno non vuole clandestini. Per questa parola, clandestini, esposta così, e su denuncia di due associazioni, le ASGI e NAGA, due realtà che da anni sono impegnate a fronte della tutela legale sanitaria dei migranti, e su decisione di un giudice, il giudice Martina Flamini di Milano, la Lega è stata condannata a pagare appunto un'ammenda di 10.000 euro perché non si usa la parola clandestini, visto che non sapete se hanno diritto di essere considerati profughi. Vietato dire clandestini ai profughi. La Lega multata per discriminazione. Una pagina del Giorno, una pagina della Verità, un giudice ha deciso: non si può più chiamare clandestini i clandestini. In questo titolo anche un po' arzigogolato. Lega Nord condannata e multata. E così la prima pagina di Libero con l'articolo di Filippo Facci dedicato a questo tema. Soldi. E invece, signori, questi sono gli articoli, non l'articolo, gli articoli che mi fanno pensare della giornata, a dir poco, perché il premio mani sul volante, ben strette le mani se state guidando, e sono gli articoli dedicati alla storia di Angelo Massaro, 51 anni, pugliese. Angelo Massaro è stato scarcerato da poco ed ha passato 21 anni, provate a immaginare cosa avete fatto in questi ultimi 21 anni della vostra vita, provate a pensarci, 21 anni in carcere per un delitto che non aveva mai commesso. Assolto dall'accusa di omicidio, solo ora, 21 anni dopo, è stato decifrato correttamente un dialogo che lui ha fatto in dialetto al telefono. Quando ha detto alla moglie, non lo dico in dialetto pugliese perché lo storpierei, pratica ha detto: ho questo peso morto da spostare. Invece lui diceva: ho questo mors, cioè un peso, aveva un rimorchio attaccato alla macchina. E i giudici hanno detto: ho questo morto da portare via, perché uno lo dice così al telefono peraltro, e per questa intercettazione considerata chiave per i giudici è stato condannato a 21 anni. Ora lo hanno assolto dall'omicidio del suo migliore amico, delitto che lui non ha commesso, ma per il quale ha scontato 21 anni di cella da innocente. Angelo Massaro, 51 anni, da Fragagnano in provincia di Taranto, è scoppiato in lacrime quando ha ascoltato il verdetto della Corte d'Appello di Catanzaro. Si era rivolta a quei giudici dopo un calvario fatto di processi, ricorsi, fino a sfociare alla revisione. Ha varcato la soglia del carcere a 30 anni, bollato come l'assassino di Lorenzo Fersurella, trovato cadavere in una discarica. Per decifrare correttamente il dialogo catturato da una cimice e smontare la deposizione lacunosa di un pentito ci sono voluti 21 anni. Ora lui rilascia un'intervista a Mario Diliberto sul Messaggero, dice: «Non è possibile descrivere cosa mi è stato tolto. Mi hanno privato di tutto. Non c'è risarcimento che possa restituirmi la vita. Lo hanno fatto ingiustamente. C'erano le prove della mia innocenza, ma sono state tralasciate. Io non odio e non accuso nessuno. Chiedo solo alla giustizia di spiegarmi cosa è successo. In tutti questi anni ho deciso che non dovevo arrendermi, lo dovevo ai miei due figli. Li ho lasciati a 2 anni e mezzo, il primo, e 45 giorni il secondo. Lo dovevo anche a mia moglie Patrizia, che più di tutti ha sempre creduto nella mia innocenza. Dissi all'epoca appunto in una parola, mors, che vuol dire peso. Mi riferivo a un bobcat che trasportavo, venne tradotto come morto. Ma io ero altrove al momento del delitto ed era facile verificarlo. Ci sono voluti 21 anni. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. Alessandro Milan, il quel che devi sapere su ciò che c'è da sapere dell'informazione. E va bene, alle 7:37 minuti in questo istante. Due notizie di politica, la scissione del PD, sempre questo. Guardate, vi do due spunti dai giornali. Bersani che dice, Massimo Franco coglie questa frase a pagina 8 del Corriere della Sera in un colloquio. Bersani che dice, conoscendo il soggetto, si riferisce a Renzi, conoscendo il soggetto, la mia previsione è che dopo aver fatto 30 tenterà di fare subito 31, e cioè cercherà di forzare la situazione, celebrare le primarie ad aprile, a ruota il congresso e arrivare al voto anticipato a giugno. Titolo: Renzi, conosco il soggetto, da lui prevedo forzature. Il voto a giugno? In tutto la minaccia di Emiliano è questa: se si accelera finiamo alle carte bollate, o Matteo capisce o gli piantiamo un casino che ricorderà. Questo è il titolo di Repubblica. Mentre sempre sul PD c'è questa storia molto interessante sulla vicenda del figlio di De Luca, la dynasty De Luca e il posto in lista al figlio. Dite? Io non ne so niente. Concita Sannino racconta su Repubblica, pagina 13, che secondo i rumors di Palazzo, dietro l'appoggio che De Luca farà a Matteo Renzi, c'è la promessa dello stesso Renzi di candidare il figlio di De Luca al Parlamento. De Luca ovviamente dice non ne so nulla, ma ovviamente di questo si parla. A proposito di politica, vi segnalo l'apertura del Fatto Quotidiano. Lotti raccomandò a Emiliano l'amico d'affari di Papa Renzi. È una storia che racconta Marco Lillo a pagina 2 del Fatto. Ed è questa la storia. Marco Lillo va da Emiliano per sapere se Emiliano abbia mai frequentato Carlo Russo, salentino, amico del papà di Renzi. Emiliano si arrabbia molto. Ma come vi viene in mente che un presidente di regione vada a casa di un soggetto simile? E Emiliano a quel punto tira fuori gli SMS. Ecco qua gli SMS con Russo. Si interrompono nel 2015. Ed ecco questo messaggino di Lotti che mi dice di incontrarlo, mi prega di incontrarlo. E a quel punto il cronista Marco Lillo dice: come? Eravamo qui per sapere se lei è andato da Carlo Russo e abbiamo scoperto una notizia, cioè che Luca Lotti le ha, come dire, raccomandato un incontro con questo Carlo Russo. Ecco allora che il titolo diventa: Lotti raccomandò a Emiliano l'amico di Babbo Renzi. Va bene, tutte storie che insomma trovate sui giornali. Il Fatto dice ora ci devono spiegare tutti i tipi di relazione. Va bene, la politica è anche lo stadio della Roma. Lo stadio della Roma, oggi c'è l'incontro, si sa se decisivo oppure no, sullo stadio della Roma con la proprietà della Roma e il comune di Roma. Stadio Raggi si aggrappa a un parere, questo è il titolo di pagina 20 di Repubblica, in attesa dell'incontro decisivo tra la giunta e i promotori del nuovo stadio, il Campidoglio è diventato il porto delle nebbie, secondo Repubblica. Cioè nessuno sa al momento cosa la sindaca di Roma abbia stabilito di fare. Stretta com'è tra l'ostilità dei consiglieri 5 Stelle, in gran parte contraria al progetto, e il pressing dei vertici internazionali intenzionati a portarlo avanti, al netto del niet di Grillo su Tor di Valle, che ha finito di ingarbugliare la matassa. E perciò si scoprirà. Qual è la exit strategy? Ci sarebbe un parere per l'avvocatura capitolina, la delibera Marino, del sindaco Marino, si può annullare senza pagare penali. Grillo dice le risposte a breve, staremo a vedere, forse oggi è un giorno decisivo da questo punto di vista. La politica si interroga anche per quel che riguarda il centrodestra con quello che sta succedendo a Silvio Berlusconi. La notizia forse più interessante di politica è legata al centrodestra, alla Sicilia. Tommaso Labate racconta che per la prima volta nel centrodestra ci saranno i gazebo in Sicilia, si sceglierà con le primarie il candidato alla regione. Lo hanno stabilito un po' tutti i vertici dei gruppi dell'Assemblea regionale siciliana del centrodestra, creando un caso per Forza Italia. Berlusconi è sempre stato contrario alle primarie e un Berlusconi che viene dato per arrabbiato. Berlusconi, che tra l'altro è comparso in tribunale ieri, ha denunciato Giovanna Rigato, giornalista, showgirl, che ha partecipato anche a un'edizione del Grande Fratello, raccontano tutti i giornali, leggo da Giuseppe Guastella, pagina 9 del Corriere della Sera, Berlusconi in tribunale contro una ragazza delle cene. Rigato chiese 1 milione, fa sapere l'avvocato di Berlusconi. C'è anche questo SMS mandato al ragioniere Giuseppe Spinelli, amministratore di Berlusconi. 10.000 euro come aiuto economico fino a settembre, dato che non mi hanno rinnovato il contratto, scrive in questo SMS Giovanna Rigato. Mi chiami entro stasera, se no mi tocca accettare le interviste che mi propongono e fare causa al presidente. È successo il contrario, nel senso che Berlusconi ha denunciato Rigato. E tra l'altro, parlando di richieste sempre più pressanti e intimidatorie, nell'esposto, scrive il Corriere, c'è una sorta di avvertimento alle altre partecipanti a queste cene, visto che c'è scritto: intanto è finalmente possibile denunciarne una. Come dire, c'è il rischio di un avvertimento, denunciarne una per avvertirne 100, usando una vecchia massima che non è proprio berlusconiana, ma di qualcuno di un'appartenenza politica ben diversa. Caro Mauro Meazza, eccoci qua. Noi buongiorno, siamo mai stati a cena io e te? Dobbiamo... Non me ne ricordo in questo momento, no. Posso, forse a mia insaputa? A mia insaputa, forse sì. A tua insaputa anche. Ecco, la nostra anche. Insaputa? La nostra insaputa. Potremmo essere stati a cena. Senti, caro Alessandro, guarda che, a parte che la prossima sarà una settimana decisiva, sì. Ma non per tutte le ragioni che tu vai enumerando, bensì per la cessione del Milan. Ah. Oh, leggi su Finanza, sulle pagine di Finanza, avidamente come sempre, sappi che si sono di nuovo modificati, c'è di nuovo modificata la compagine delle società che deve entrare, ma la prossima è la settimana decisiva, dovrebbe essere la settimana decisiva, quindi cominciamo il conteggio se vuoi, ricominciamo il conteggio. Venendo a cose invece di altra natura, ti segnalo ben due guide oggi sul Sole 24 Ore, l'una dedicata alle misure per il pubblico impiego, sai che ieri sono stati varati in Consiglio dei Ministri alcuni provvedimenti che dovranno intervenire ad esempio per il reintegro dei dipendenti ingiustamente licenziati oppure per i rinnovi contrattuali, un percorso complesso che spieghiamo nelle pagine iniziali. E poi il milleproroghe che tu hai colpevolmente trascurato, lo hai studiato poco e male, dai su. Comunque ormai è diventato legge e allora... Cosa c'è dentro il milleproroghe? Studia su norme e tributi, c'è un tabellone intero. Ti segnalo da sapere sicuramente che ci sarà la disoccupazione, indennità di disoccupazione per i collaboratori almeno fino a giugno e poi le norme su fisco e bilanci che tu negligi in certo senso, negligi, ma invece sono importanti. Cosa devo dire? Negligo? È un po' negligi perché me le lasci neglette, quindi negligi. Vabbè, comunque ti vorrei poi segnalare che oggi, essendo venerdì, troverai Moda 24. Mi dice il congiuntivo imperfetto di negligere. Adesso non distrarmi che devo parlarti una cosa importante, cioè di arte moderna. Sulle pagine di Moda 24, c'è una artista che ha costruito una scultura con copie del Sole 24 Ore. Ah. Ma il futuro anteriore di negligere? Se puoi mostrarla agli ascoltatori, eccola qua. Guardate che scultura, ragazzi, guardatela, ammiratela tutti. E infine, domani invece, per tutelare i tuoi due urini, ricordati di leggere Avidamente Plus, il settimanale dedicato al risparmio. Tra l'altro si parla delle società proxy. Che tu pure secondo me negligi o sì. Negligeresti comunque volentieri, ma non potrai più negligere il condizionale, non potrai più negligere perché sono quelle società che orientano il voto nelle assemblee. Ma come funzionano te lo spiegherà Plus. Ma il trapassato domani. Prossimo di negligere? Santa pazienza, il trapassato prossimo potrebbe essere Sassuolo, per il quale ti faccio tanti auguri. grazie, cari auguri. Grazie anche per Inter Roma. Finirà 1-1. Va bene, la cosa confortante è che la Roma almeno domenica avrà uno stadio però dove giocare, mi sembra di capire. Esatto. Visto che c'è un po' di incertezza sul punto. Caro Alessandro, cari ascoltatori, buona domenica. Non, mi raccomando, non negligetemi il milleproroghe e soprattutto, come sempre, traffico! Alessandro Milan, il Bob Marley dell'informazione. Get up, stand up. Stand up for your right. Farà tutto, Peter, adesso come get faccio? Up, stand up. Tutte le volte. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Ma tu lo metti per far ballare la nostra Laura Faggin, che sai che poi arriva in radio ballante. Preacher man, don't tell me. Heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's a thought that Peter is cold. After story had never been told. So now you see the light. Hey, stand up for your eyes. A Allora, adesso per fare tutta la discografia di Bob Marley inviterei tutti gli ascoltatori a mandarci delle sigle su tutte le canzoni di Bob Marley, se no siamo costretti a mettere solo questa. Cari ascoltatori, al 349-238-6666 potete mandare le sigle in audio, non solo su Get Up, Stand Up, ma anche su altre cose. Va bene, allora signori, dobbiamo parlare di questa storia, non bella, una storia drammatica che ricorda la vicenda di Paola Clemente. Forse il nome non vi dice moltissimo, 49 anni, il 13 luglio del 2015, morta di fatica nei campi di Andria, in Puglia. E quando si dice di fatica vuol dire di fatica, perché lavorava in nero, svegliandosi alle 2 di notte. La storia è raccontata da Carmine Festa oggi a pagina 4 della Stampa. Sveglia alle 2 di notte per andare poi dalle 3 a bordo del pullman che da San Giorgio Ionico nel Tarantino la portava nel vigneto di Andria nel nord barese, dove arrivava all'alba, e lì dalle 5 e mezza fino al pomeriggio a raccogliere uva per una paga giornaliera di 27 euro finché è stramazzata, appunto. La svolta c'è stata dal punto di vista giudiziario, perché sono state arrestate in base alla legge del 2016 che reprime il caporalato alcune persone. Dopo l'inchiesta della procura di Trani, 6 persone, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Questo è il titolo del reato per il quale sono state arrestate queste persone. E la vicenda è ovunque sui giornali. Il Manifesto dedica proprio la prima pagina con un titolo: schiava da morire. Dalla storia di Paola Clemente, 49 anni, morta appunto di fatica dopo 12 ore nei vigneti di Andria, schiavizzata per pochi euro al giorno. Questa è la parola legittimamente utilizzata, schiavizzata. E tra l'altro racconta sempre La Stampa, con Francesco Grignetti a pagina 5, in appoggio alla notizia di cronaca degli arresti, dell'esercito di 400.000 persone in nero. Certo, questa è una stima della CGIL, è una stima appunto perché non è facile. 400.000 lavoratori è il sommerso dell'agricoltura, di questi uno su quattro in prevalenza stranieri, sono quelli costretti a subire forme di ricatto lavorativo e a vivere in condizioni fatiscenti. Così si legge nell'ultimo rapporto dell'Osservatorio Placido Rizzotto della CGIL, lavoratori dell'agricoltura. 400.000 persone che lavorano in nero, un vero esercito di sfruttati, sottopagati, agli ordini di caporali, aziende che a loro si rivolgono. Sono un dato non degno di un paese civile e moderno. E oggi La Stampa, oltre a raccontare la storia, racconta appunto questa con i numeri. Invece una notizia di cronaca che ho trovato in ampio risalto solamente sul giornale è questa. Signori, vi ricordate la vicenda di qualche giorno fa di una ragazza di 15 anni che sulla linea Mortara-Alessandria, credo Pavia, Milano-Mortara, ha denunciato un'aggressione con violenza sessuale, palpeggiamenti da parte di due stranieri, due magrebini, uno dei quali si diceva è stato identificato? Ormai sono braccati, ormai sono presi. La politica ovviamente si è gettata a capofitto con dichiarazioni. La ragazza si è inventata tutto. Titolo del giornale: Paola Fucilieri, molestata e picchiata in treno. La ragazza ha inventato tutto. La quindicenne aveva denunciato l'aggressione sull'ultima carrozza del Milano Mortara da parte di due magrebini. Invece quella storia è inventata dall'inizio alla fine, grazie alla fantasia, purtroppo alle problematiche di una quindicenne che prima o poi dovrà pur dire la verità, anche se le farà molto più male di quanto forse potesse immaginare all'inizio di tutto questo. Già gli investigatori appena intervenuti avevano capito con la squadra mobile che c'era qualcosa che non andava, non si era mai stato trovato alcun riscontro. Alla fine una persona straniera si era anche presentata con l'avvocato perché si sentiva ingiustamente braccata ed era desiderosa di chiarire di avere sì conosciuto la ragazza su Facebook, come lei aveva affermato, di averla anche incontrata, ma di non essere mai stato sul treno, mai con l'amico e soprattutto averle mai usato nessun tipo di violenza. Si era inventata tutto. Va bene, sui giornali trovate tutti i ritardi della ricostruzione del terremoto, di cui parleremo anche noi tra poco, anche con Oscar Giannino alle 8.15, quel fuori onda, comunque quella ammissione di Vasco Errani che dice è tutto un po' in ritardo, ne parliamo. Trovate sui giornali anche l'inchiesta per aggiotaggio da parte della Procura di Milano, non su tutti i giornali, Corriere Repubblica lo dicono, la scalata Vivandia Mediaset e Bolloré è indagato per aggiotaggio. Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella raccontano tutti i particolari a pagina 5 del Corriere della Sera. La Fininvest si è rivolta non solo alla Consob, non solo alla Gcom, ma anche alla Procura di Milano con un esposto, e ora la Procura di Milano indaga per aggiotaggio Bolloré per la scalata di Vivendi a Mediaset. La vicenda delle palme. Basta Milano. Che stress, che noia, le palme che sono meravigliose, delle piante stupende. Adesso sono arrivati anche i banani e quindi ci sfrangiano le noci di cocco con le polemiche. Ecco, dopo le sentite qui, dopo le palme, qui siamo alla Carta Costa, è l'articolo più inutile scovato sui giornali. Una pagina su Libero, dopo le palme arrivano anche i banani. Milano come Malindi, ma magari, ma magari. Ma chi se ne frega!